Saluto Ignazio Teoforo alla Chiesa di Dio Padre e dell'amato Gesù Cristo che ha ottenuto misericordia in ogni grazia, che è piena di fede e di carità, piena di ogni carisma, carissima a Dio e portatrice dello Spirito Santo, che sta a Smirne dell'Asia, il saluto migliore nello Spirito irreprensibile e nella parola di Dio. Inchiodati nel corpo e nell'anima alla croce di Cristo. Gloria a Gesù Cristo Dio che vi ha resi così saggi. Ho constatato che siete perfetti nella fede che non muta, come inchiodati nel corpo e nell'anima alla croce di Gesù Cristo e confermati nella carità del suo sangue. Siete pienamente convinti del Signore nostro, che è veramente della stirpe di Davide secondo la carne, figlio di Dio secondo la volontà e la potenza di Dio, nato realmente dalla Vergine, battezzato da Giovanni, perché ogni giustizia fosse compiuta da lui. Egli, sotto Ponzio Pilato e il tetrarca Erode, per noi fu veramente inchiodato nella carne, e dal frutto di ciò e dalla sua divina e beata passione noi siamo nati per innalzare per sempre con la sua resurrezione uno stendardo sui suoi santi e i suoi fedeli, giudei e pagani, nell'unico corpo della sua Chiesa. Il Signore soffrì realmente e risuscitò realmente. Tutto questo soffrì il Signore perché fossimo salvi, e soffrì realmente come realmente risuscitò se stesso, non come dicono alcuni infedeli, essi che sono apparenza, che soffrì in apparenza, come pensano avverrà loro di essere incorporei e simili ai demoni. La risurrezione nella carne. Sono convinto e credo che dopo la risurrezione egli era nella carne. Quando andò da quelli che erano intorno a Pietro, disse: «Prendete, toccatemi e vedete che non sono un demone senza corpo». E subito lo toccarono e credettero al contatto della sua carne e del suo sangue. Per questo disprezzarono la morte e ne furono superiori. Dopo la risurrezione mangiò e bevve con loro come nella carne, sebbene spiritualmente unito al Padre. Sopportare tutto in Cristo. Questo vi raccomando, carissimi, sapendo che così l'avete nell'animo. Vi metto in guardia da queste belve in forma umana che non solo non bisogna ricevere, ma se possibile neanche incontrare. Occorre soltanto pregare per loro che si ravvedano, cosa difficile. Gesù Cristo, nostra vera vita, ne ha la potenza. Se è un'apparenza, quanto è stato fatto dal Signore, anch'io sono in apparenza incatenato. Allora, perché mi sono offerto alla morte? Per il fuoco, per la spada, per le belve. Ma vicino alla spada sono vicino a Dio. Vicino alle belve sono vicino a Dio, solo nel nome di Gesù Cristo. Per patire con Lui, tutto sopporto dandomene la forza, Lui che si è fatto uomo perfetto. La passione di Cristo, la nostra risurrezione. Alcuni, non conoscendolo, lo rinnegano e più che mai sono da lui rinnegati. Difensori della morte più che della verità non li hanno convinti né i profeti né la legge di Mosè e sinora né il Vangelo né le nostre sofferenze singole. Di noi la pensano allo stesso modo. Cosa importa a me se uno mi loda e bestemmia il mio Signore dicendo che non si è incarnato? Chi, dicendo così, lo rinnega completamente. È un necroforo. Non mi è parso opportuno scrivere neanche i loro nomi, che sono infedeli. Essi non sono per me da ricordare sino a quando non si convertono alla passione, che è la nostra risurrezione. La fede e la carità. Nessuno si lascia ingannare. Anche gli esseri celesti, la gloria degli angeli, i principi visibili e invisibili, se non credono nel sangue di Cristo, hanno la loro condanna. Chi può comprendere, comprenda. Il posto non inorgoglisca nessuno. Tutto è la fede e la carità, cui nulla è da preferire. Considerate quelli che hanno un'opinione diversa sulla grazia di Gesù Cristo che è venuto a noi come sono contrari al disegno di Dio. Non si curano della carità, né della vedova, né dell'orfano, né dell'oppresso, né di chi è prigioniero o libero, né di chi ha fame o sete. Praticare la carità per risorgere. stanno lontani dalla Eucaristia e dalla preghiera perché non riconoscono che l'Eucaristia è la carne del nostro Salvatore Gesù Cristo che ha sofferto per i nostri peccati e che il Padre nella sua bontà ha risuscitato. Costoro che disconoscono il dono di Dio nel giorno del giudizio moriranno. Sarebbe meglio per loro praticare la carità per risorgere. Conviene star lontano da essi e non parlare con loro né in privato né in pubblico, per seguire invece i profeti e specialmente il Vangelo nel quale è manifestata la passione e compiuta la risurrezione. Fuggite le faziosità come il principio dei mali. Seguire il Vescovo e il Clero. Come Gesù Cristo segue il Padre, seguite tutti il Vescovo e i presbiteri come gli Apostoli. Venerate i diaconi come la legge di Dio. Nessuno senza il Vescovo faccia qualche cosa che concerne la Chiesa. Sia ritenuta valida l'Eucaristia che si fa dal Vescovo o da chi è da lui delegato. Dove compare il Vescovo, là sia la comunità, come là dove c'è Gesù Cristo, ivi è la Chiesa Cattolica. Senza il Vescovo non è lecito né battezzare né fare l'agape. Quello che egli approva è gradito a Dio perché tutto ciò che si fa sia legittimo e sicuro. Onorare il Vescovo. È saggio del resto ritornare in senno e sino a quando abbiamo tempo di convertirci a Dio. È bello riconoscere Dio e il Vescovo. Chi onora il Vescovo viene onorato da Dio. Chi compie qualche cosa di nascosto dal Vescovo serve il diavolo. Fate tutto nella carità, ne siete degni. In tutto avete confortato me e Gesù Cristo conforta voi. Assente e presente mi avete amato. Vi contraccambi Dio che raggiungerete sopportando tutto per Lui. La mia anima e le mie catene. Bene avete fatto ad accogliere come diaconi di Cristo Dio Filone e Agatopo che mi accompagnano nella parola di Dio. Essi ringraziano il Signore per voi, poiché li avete confortati in ogni maniera. Nulla per voi andrà perduto. In cambio della vita sono per voi la mia stima e le mie catene che non avete disprezzato e di cui non vi siete vergognati. Neppure di voi si vergognerà la fede perfetta, Gesù Cristo. Gioia per la Chiesa di Antiochia che ha riacquistato la pace. La vostra preghiera è giunta alla Chiesa di Antiochia in Siria, da dove, legato con queste catene preziose a Dio, saluto tutti, pur non essendo degno di appartenervi come ultimo di voi. Per sua volontà sono stimato degno, non per mia coscienza, ma per la grazia di Dio, che prego mi sia data in pieno per raggiungerlo con la vostra preghiera. Perché l'opera vostra sia perfetta in terra e in cielo, conviene che la vostra Chiesa, a gloria di Dio, elegga un inviato di Dio per andare in Siria a congratularsi con quei fedeli perché hanno riacquistato la pace e ripreso la loro grandezza ed è stato ricostituito il corpo della loro comunità. Mi è parso dunque un'opera degna che uno di voi sia inviato con una lettera per rallegrarsi con loro della serenità conseguita grazie a Dio e del porto raggiunto con la vostra preghiera. Pensate cose perfette, perché siete perfetti. Dio è pronto ad aiutare quelli che vogliono fare il bene. Congedo. Vi saluta la carità dei fratelli di Troade, da dove anche vi scrivo per mezzo di Burro, che avete mandato con me insieme agli Efesini vostri fratelli e che mi ha confortato in ogni cosa. È utile che tutti lo imitino, perché è un modello del servizio di Dio. La grazia lo ricompenserà in tutto. Saluto il Vescovo, degno di Dio, il venerabile presbiterato, i diaconi, miei conservi e uno ad uno tutti insieme nel nome di Gesù Cristo, nella sua carne e nel suo sangue, nella passione e nella resurrezione corporale e spirituale, in unione a Dio e a voi. A voi la grazia, la misericordia, la pace e la pazienza per sempre. Saluto le famiglie dei miei fratelli con le mogli e i figli e le vergini chiamate vedove. Siate forti nella potenza dello Spirito. Vi saluta Filone che è con me. Saluto la famiglia di Tavia che prego sia rafforzata nella fede, nella carità corporale e spirituale. Saluto Alce, nome che mi è caro. l'impareggiabile Dafno ed Eutecno, e tutti col loro nome. State bene nella grazia di Dio.